avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà la femme bye. Ça fait déjà. Siete stati anche voi attanagliati dalla tentazione della vita migragnosa. Significa che in questi giorni, ascoltando la radio, guardando la televisione, vedendo i giornali, non vi è venuta la tentazione di riprendere in mano quelle antiche, vecchie, detestabili abitudini delle buone formichine che non buttano via nulla, che riciclano tutto e che non tengono un avanzo dentro casa, che insomma è ora di tirare la cinghia e quindi è ora anche di cominciare a cambiare i nostri comportamenti? Beh, il tema di oggi è proprio questo. So che esiste una tradizione orale trasmessa di generazione in generazione che si è interrotta probabilmente proprio con i felicissimi anni Ottanta, che voleva che in casa non si butta via nulla, che è peccato cambiarsi quel vestito perché ancora l'altro è buono, puoi usarlo, si può soltanto un po' aggiustare, si può allungare, si può stringere, si può passare a un altro fratello. Oppure, perché buttare via questa cosa? È ancora buona, può essere riutilizzata, può essere rimessa in circolo. Beh, questo ha determinato il fatto che sentissimo come senso piacevolissimo di colpa ogni nostro cedimento alla crapula, ogni nostro cedimento al superfluo, ogni nostro atto di edonismo sconsiderato. Ci desse un immenso piacere proprio perché noi, parlo di noi cinquantenni, probabilmente per gli altri non è stata così, ma mediamente in ogni famiglia italiana è trapelato questo senso della mesta parsimonia che deve necessariamente informare gli atti di ogni persona e considerare ogni gesto sconsiderato, gratuito, di autoproduzione di felicità come qualcosa di detestabile. Perché? Perché si infrange la regola del rigore, dell'austerità, della sobrietà. Sobrietà oggi è un termine molto usato, anche in tono ironico. Quanto vi sentite sobri nel riprendere in mano le vecchie, antiche e tristerrime abitudini delle vostre nonne? Quanto anche voi siete presi dalla tentazione di cominciare a fare in casa quello che potreste acquistare, spendendo, facendo circolare denaro, producendo comunque movimento nella grande catena della produzione. Beh, oggi la trasmissione è proprio dedicata a questo, al bricolage domestico, alle attività di economia domestica, alla parsimonia culinaria, alla parsimonia nel vestimento, alla parsimonia nella richiesta di manodopera specializzata. Quanto questo serve veramente? Quanto questo veramente ci salverà o quanto questo ci farà morire, ma però tristemente. Come fare i pomodori per l'inverno? Pomodori pelati alla mia maniera, alla maniera della Carla Fracci della cucina. Dunque, per prima cosa si prendono dei pomodori belli maturi, si lavano scegliendo quelli più belli e eliminando qualcuno un pochino più acciaccato, non perfetto. Dopodiché si mettono nelle cassette con una strofinaccio sotto per farli asciugare, poi si tagliano a metà, eliminando il picciolo, si tagliano, si prosegue con questa operazione, poi si cominciano a riempire i barattoli. Io adopero quelli da un chilo, che hanno la bocca larga, facili da riempire, si riempiono, battendo il barattolo. Ci sono anche i pomodori con la bocca stretta. Forse ho capito male, non so. Beh, i vasetti, si parla dei vasetti. Ecco, questa signora fa un'attività che ricordo appannaggio delle mie fanciullesche attività agresti, fa i pomodori fatti in casa. Li fa probabilmente per il piacere di averli sempre belli, sempre freschi. Poi quelli fatti in casa non è che durino poi tanto, quelli che si facevano nei tempi remoti della mia fanciullezza sapevano sempre un po' di acidino, c'è sempre un po' di sapore di muffetta, ogni tanto qualche bottiglia scoppiava, qualche bottiglia se la mettevi contro luce c'era una sorta di pericoloso e inquietante liquame sul fondo, ma bisognava farle perché economicamente quello funzionava. Mai sarebbe concepito l'acquisto del pomodoro già confezionato, faceva male, c'era dentro la plastica, era inquinato, era artefatto, quanto volete. volete, ma farlo in casa si fa, soprattutto perché oggi si pensa così di sgraffignare un po' di liquidità da quelli che sono già gli oneri quotidiani. 800 24 00 24, come la vedete di fronte al mio punto di vista che ho così chiaramente e cinicamente espresso? Pensate che sia necessario comunque darsi da fare, cominciare a risparmiare anche nei piccoli lavoretti domestici, o pensate sia tutto inutile, tanto vale fare come le cicale, spendere, espandere e avviarsi felicemente satolli verso l'abisso? Usa la riga in metallo spingendola con forza contro le linee tratteggiate. Pratica dei fori con una punta. Dopo aver incollato tutte le facce corrispondenti, lascia agire la colla per 2 ore. Quando tutti i moduli sono pronti, rimuovi il nastro carta. Spalma un leggero ed uniforme velo di colla vinilica su entrambe le facce e incolla insieme le facce corrispondenti, assicurandole nuovamente con il nastro. Fatto! Come farsi una sedia di cartone in casa? Bellissima la sedia di cartone. Beh, guardate, se si va davanti a un magazzino, davanti al retro di un supermercato, sono tonnellate di scatoloni di cartone che vanno appunto alla raccolta differenziata. Prenderne uno, nessuno vi arresterà per questo. Potete farvi una bellissima sediola di cartone, ma poi cosa ci fate? Chi avrà mai il coraggio di invitare qualcuno a casa e farlo sedere sulla sedia di cartone? A me un amico si è schiantato su una sedia perfetta di purissimo design, fatta in acciaio e plexiglass, pagata tantissimo, eppure si è seduto e si è schiantata. E mi sono vergognato, dico, guarda che micragnoso che sono. Se avessi portato una sedia un po' più robusta, avessi investito più in sedie, l'amico mio non sarebbe rischiato di rompersi l'osso del collo. Ma avrò mai il coraggio di far sedere una persona a casa mia? Perché l'importante è che sia pulita, che sia austera, come dicevano le nostre mamme, esci anche con le pezze nel sedere, purché tu abbia le mutande pulite e i calzini puliti, perché se hai un incidente tante volte ti portano all'ospedale e pensa un po', ti portano sanguinante, senza braccia, col cervello fuoriuscito, spappolato, e stanno a vedere se c'è la sgommatina sulle mutande. Non può essere così. 800 24 00 24, siete per la micragna o siete per la crapula assoluta? Poi questo è un sifone, semplicemente un sifone di quelli che si usa sotto i rubinetti, e il fatto che sia tutto corrugato, tutto così zigrinato, fa uscire questo suono pazzesco. Mi sono procurato un sifone, ho provato a suonarlo e veramente sono rimasto colpito, come se fosse, che ne so, un incontro ravvicinato del terzo tipo. In effetti questi sono i tre armonici che fanno proprio la musica di incontri ravvicinati del terzo tipo. Quindi ragazzi, come vedete, le cose esistono, bisogna solo andarle a scoprire. Voi cercate di farlo e di mandarmi le cose che trovate, perché quella è la cosa bella. Capì? Avete capito? Ciao, a giù! Un garrolo idraulico, non sapendo come impiegare senza pesare sul menage familiare il suo tempo libero, appassionato di musica, invece di andare in un negozio specializzato e comprarsi un sassofono, comprarsi una meravigliosa tromba, ma anche qualcosa di più modesto, un basso, una chitarra elettrica, anche un semplice bonghino che si vende a 20 euro, cosa fa? Quando va a fare lavoro in casa si porta via i sifoni usati, dove sono passate le unghie tagliate, le caccole del naso, i capelli, i peli ascellari, chissà di quante famiglie, e lui se li porta a casa e ci fa un meraviglioso strumento musicale. Così ha risparmiato, così felice. Ma pensate alla mestizia di quella moglie, di quei poveri figli che la sera vedono il papà con i sifoni del bagno che suona la sua musichetta da incontri ravvicinati del terzo tipo. Ma siete sicuri che ciò che noi guadagniamo risparmiando, facendo bricolage, facendo le brave formichine, non lo perdiamo in salute, non lo perdiamo in felicità? Franco da Rimini, cosa ne pensa? Abbassi la radio prima. Penso che questo sia un sistema che ci ha portato un po' alla difficoltà che abbiamo adesso, quello di spendere, spendere, spendere. Ah, quindi lei diciamo è per la versione formichesca dell'esistenza? Io sono per una versione di fare le spese e farle come si deve, come quando si compra l'arredamento di casa, di cercare di fare un tipo di arredamento che sia durevole. Tipo... Ma io non dico di sperperare, dico quelle piccole attività di recupero, di piccolo artigianato domestico, quelle cose che erano giustificabili in un'economia post-bellica, in un'economia difficoltosa, oggi non rallentano la grande macchina della produzione, la crescita del paese? Non lo so, me lo domando io, ma soprattutto non ci tolgono felicità? Suonare il sifone fatto con gli avanzi dei cessi altrui non mette tristezza rispetto, non so, indebitarsi ma comprarsi un bel sassofono e suonarlo felice? Sembra un paradosso, ma è proprio il fatto di indebitarsi che poi dopo rende ancora più difficile poter andare avanti nei momenti di crisi come adesso. Una volta non indebitandosi si riusciva a mettere dei soldi da parte, si riusciva a risparmiare e nei momenti difficili si è riuscito a continuare ad andare avanti. Oggi le persone pensano che facendo girare i soldi si pensa di mandare avanti il mercato. Ma il mercato, appena c'è un minimo di difficoltà, come anche adesso con i posti di lavoro, non c'è il posto di lavoro, non c'è il lavoro, principalmente anche perché non lo si vuole fare certi tipi di lavoro. Ma io l'ascolto con attenzione e naturalmente accento sempre sulla provocazione, se no non arriviamo al punto dell'argomento. Però io non mi riferivo a un così vasto spettro economico, ma semplicemente in delle piccole cose che in fondo non incidono fortemente. Nessuno si indebita per prendersi un oggetto che gli dà felicità. Quando una persona è felice non riesce a essere più produttivo. È questo il tema su cui vorrei convogliare i nostri ascoltatori, dando poi delle sane, autentiche, importanti ricette per riuscire a vivere meglio, magari consumando meno, risparmiando di più o adattandosi a riutilizzare ciò che abbiamo già in casa. Però l'equivoco, il grande dilemma su cui nemmeno io so darmi una risposta, è ciò che noi risparmiamo, ciò che noi portiamo via alla dissoluzione, allo spreco piccolissimo, misero del nostro menage quotidiano di fronte ai grandi sprechi di cui vediamo in giro. Non lo paghiamo con un prezzo altissimo, con la nostra mancanza di felicità, di spensieratezza. 800 24 0024. E la ricetta di oggi è pane fatto in casa. Prendete un fornaio con la scabbia. Se non ce l'avete, basterà del pan grattato da aggiungere all'acqua, dopodiché mischiare in questo modo. Fin qui è facile, ce la fa anche la Isoardi, quella che ha rubato il posto ad Antonella Clerici. Dopodiché si aggiunge della colla vinilica in questo modo e si modella a forma di panino. Se vi fa un po' schifo, pensate alla scena di Ghost, quella oh my love, my darling, eccetera. Ma il tocco... Naturalmente c'è chi ci ironizza, ma... c'è chi di queste attività in realtà ha fatto una sua sorta di scuola marziale. Ci sono persone che hanno studiato, analizzato, quintessenziato la possibilità di evitare lo spreco, anzi trasformare lo spreco in qualcosa di intelligente, interessante, piacevole anche alla fruizione, e quindi questa mattina ne sentiremo alcune. Sara Covatti, buongiorno. Buongiorno. Sara Covatti, autrice del libro Low Cost in Cucina, l'arte del riciclo per preparare piatti gustosi a costo zero, edizioni Aliberti. Io l'avrò fatta inorridire questa mattina, signora, ma era una necessaria scossa, se no facciamo una trasmissione di economia domestica. Lei riesce a darci una maniera per equilibrare questa equazione? Essere felici, essere soddisfatti, non avere quella sensazione terribile di far qualcosa perché ci si trovi in una situazione di terrificante emicrania, allo stesso tempo non sprecare eccessivamente in cucina? Sì, beh, molto semplicemente guardando il famoso frigorifero o la propria dispensa ci si può lasciare ispirare da quello che già si ha per poi cucinarlo e portare a termine le nostre confezioni che abbiamo comprato o insomma tutte le cose che abbiamo, in modo da non buttarle via. Io spesso vedo soltanto un'invasione di zombie nel mio frigorifero. Forse bisogna arrivare in tempo prima che le merci si deteriorino. Sì, un po' questo, anche se io cito spesso una mia prozia che si vantava di mangiare sempre gli alimenti scaduti e nonostante questo lei ha vissuto fino a 96 anni, sì. Quindi anche non fidarsi troppo della data di scadenza degli alimenti, magari assaggiare consiglia, scoprire che sono ancora buoni. Consiglia di essere di manica larga, se è scaduto cioè, beh, vediamo, forse è buono lo stesso. Sì, sì, dare una seconda chance al latte scaduto da un paio di giorni. Cioè, a me fa venire un po' i brividi. E cosa ci si fa con il latte scaduto? No, se c'è una ricettina con latte scaduto, sentiamo, cosa diventa? Yogurt? Sì, lo si si può utilizzare per fare le torte, per esempio, lo si cuoce e naturalmente dopo averlo annusato, magari assaggiato in piccola quantità. E sì, perché l'odorino del latte andato a male si avverte subito. Infatti, quindi è facile. È come un capirlo. Cadavere di topo nascosto in un buchetto, si sente. Sì. E se no c'è una ricetta che si chiama buglione, che consiste nel far bollire a lungo il latte con lo zucchero fino a ottenere una specie di crema che poi si può spalmare sul pane, per esempio. Ci sono altre merci scadute che possono essere utilizzate, non so, la carne con l'aceto come si faceva sotto le armi quando... Esatto, sì. Sì. No, la carne una volta cotta poi si conserva abbastanza a lungo e infatti l'importante è non farla marcire per giorni e giorni in frigo, magari nascosta da altre merci che abbiamo comprato. E quando, diciamo, allora, quando la fettina è un po' verde, cosa ci si può fare? La possiamo tritare e usarla come base per le polpette. E questa è una buona idea. Sono buonissime. Il formaggio con la muffetta? Il formaggio con la muffetta pure, togliamo la muffetta, quindi salviamo la parte buona e anche quello si può sciogliere, amalgamare in altre composizioni per fare sempre polpette. Io vado a braccio, però vedo che lei è molto esperta. La frutta, quando comincia a essere un po' marcia, la mela che è mezza marrone e mezza sana, ci si può fare qualcosa? Allora, con la mela io addirittura faccio biscotti con le bucce di mela. Ah. Quindi salvo anche la buccia. Tutte le bucce salvano di qualsiasi frutta? No. Ma proprio di qualsiasi no, però... Una volta si diceva che le bucce di banana uno se le poteva fumare. Sì. Non so se... Ecco. Non so se era una leggenda... probabilmente non... No, non funzionava. Non sono cancerogene, però forse... Non so che effetti diano. Altre sue ricette, diciamo, che ci fanno capire che in fondo... È anche un buon esercizio, un training quasi zen di sapere che esistono delle risorse che vanno oltre la nostra capacità anche di conoscere fino a che punto un alimento può essere usato. Infatti, allora, per esempio, adesso ci avviciniamo al Natale, quindi sicuramente tra un mesetto avremo un sacco di panettone, di pandoro in eccesso da smaltire e il pandoro si può utilizzare al posto dei savoiardi in tantissime la zuppa inglese si può fare, cioè. Sì, basta anche così avere un po' di fantasia e pensare a cosa assomiglia il pandoro quindi lo posso usare al posto di un savoiardo, quindi diciamo un panettone può arrivare quasi con le prime colombe a lambirsi il panettone. Sì, tranquillamente, poi arrivano arriva l'eccesso di colombe, a quel punto anche la colomba può essere utilizzata col cocomero più o meno di Ferragosto. Come abbiamo usato il panettone. Poi fermiamoci un secondo, perché ho un altro ospite che è ancora più specifico rispetto a... è caduta l'altro ospite, benissimo, la sentiamo, Vitalba da Roma. Eccomi, buongiorno. Buongiorno Vitalba. Allora, io prendo spunto da una battuta che ha fatto lunedì scorso Fiorello, sì. Quando diceva, faceva la differenza fra quelli che nascono ricchi, che nascono in certi agi, quindi che non hanno mai dovuto fare delle ristrettezze, e noi, dice, vede, noi anche se siamo, diciamo, abbiamo tutti gli agi, le possibilità, comunque nel nostro DNA è spegnere la luce, chiudere il rubinetto, certo. Per cui la sobrietà è insita in noi. Lì prima, ma quando dice noi, lei chi dice? Noi dico persone che sono morti di fame, sì. Non sono nati negli agi e comunque sono stati sin da piccoli forgiati al risparmio. Ma più che altro agio non agio, sa, è un trapelare, un trasmettere di buone regole di educazione che sì. Erano molto molto radicate in tutta la società fino agli anni del boom. Poi il boom ci ha fatto cambiare idea, ci è venuta l'idea che più noi usavamo, più sprecavamo, più usavamo, più ricompravamo e più eravamo benestanti e ricchi. Chi ha ancora avuto dei genitori, dei nonni o degli zii lambiti dalla guerra, lambiti da quello spirito, dall'idea, un'idea di autarchia, queste cose gli sono rimaste veramente nel DNA. Anche a me viene distinto di spegnere la luce. I figli mi dicono: perché spegni la luce, papà? Dico: ma non so, perché tenerla accesa? È normale, ha perfettamente ragione. Quindi lei come applica questo, diciamo, retaggio mortificatorio che abbiamo nel sangue? No, vede, non è mortificatorio. Beh, un po' sì. Cioè, no, io mi sentirei male se la luce stesse accesa. Insomma, io lo sento un limite, io vorrei accendere tutte le luci del mondo, vedere, ah, che bello. Lo so, beh, sì. Io lo sento come una sorta di educazione alla micragna, diciamoci la verità, è brutta la parola, ma è questo, che è uno spettro che hanno avuto i nostri genitori, che noi in questo momento sentiamo come qualcosa che sembra una notizia sconvolgente, come dovremmo stringere la cinghia, avremo meno di quello che abbiamo, non immaginando nemmeno ancora le braccia di grasso dovremmo attraversare per trovarci in una situazione semplicemente vicina a quella di cui allucinavano i nostri genitori. Ecco l'altro ospite, abbiamo recuperato Annalisa De Luca, buongiorno. Buongiorno. Autrice di Facciamo il pane, Terra Nuova Edizioni, responsabile del blog www.fermentiselvatici.org. In questo momento lei sta facendo, immagino, il panettone in casa per non comprarlo e non evitare di fare questa spesa folle. No, veramente io spendo molto di più a farlo in casa che a comprarlo. Oh, finalmente. Allora il suo lo fa per piacere? Sì. È un'attività spinta dalla lussuria, non dalla micragna. Sì, diciamolo, è così. No, in questo caso la rivaluto e l'amo tantissimo. Però lei qual è la sua specialità? Sì, molte amiche mie fanno il pane, fanno degli orrendi maritozzi di vibrocemento e te li spacciano come cosa naturale. Qual è il segreto del buon pane? Il segreto del buon pane è quello fatto con la lievitazione naturale, è trovare qualcuno che ti dia una pasta madre che funziona. Cioè che ti dia quello zombie che si chiama la madre che gira di frigo in frigo, adesso un po' esatto. meno. No, il problema è proprio lo zombie, è che spesso lo è, e questo è vero, e quindi dà luogo a mattoni come quelli che anche lei si è trovato a dover digerire. E invece, insomma, ci sono, si può avere una pasta madre che funziona. E tra l'altro proprio domani, sabato, ci sarà una distribuzione di pasta madre in tutta Italia. Dove si prende? A Roma dove si prende? Come? A Roma anche? Penso di sì. Mi precipito. Di Roma non ho informazioni specifiche, però c'è un sito, si chiama pastamadre.net, dove c'è l'elenco di tutte le iniziative. Quindi avete spezzato il grande cadaverone della madre di tutte le pagnotte e la state distribuendo in tutta Italia. L'abbiamo un po' rinvivita prima. Sì. Il cadavere l'abbiamo buttato via. Ma lei mi conferma che quindi è più la spesa che diciamo che il risparmio nel farsi il pane in casa? Per il panettone sì, perché i panettoni vengono fatti con ingredienti piuttosto improbabili, quelli industriali spesso, e comunque ci sono una serie di riempitivi a basso costo che permettono di far pagare un panettone 3 euro quando un panettone fatto in casa ne costa almeno 5, fra l'energia e gli ingredienti. Però vuole mettere la soddisfazione di averlo fatto. Quello sì, e poi anche se non lievita, anche se viene basso, anche se è un po' tozzo, insomma, perché è difficile che venga bello lievitato come quelli che si comprano, però ha un sapore infinitamente più buono. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Facciamo il sapone fatto in casa. Per fare il sapone fatto in casa occorrono tre ingredienti fondamentalmente: un po' di soda caustica, un po' di olio extravergine di oliva, di modo che riduciamo i residui chimici del sapone al minimo, perché nell'olio d'oliva c'è la sans è un metodo di estrazione chimico, e quindi noi vogliamo fare un sapone quanto più naturale possibile, e poi dell'acqua di rubinetto e niente, mischiando questi tre elementi nelle dovute proporzioni si ottiene una reazione fra una base che è la soda caustica, un acido, e si tiene un sale, un idrossido. Allora pesiamo la soda caustica, che va pesata molto bene. Bisognerebbe usare guanti protettivi, vedi, e occhiali. Sentite questo umarel piccolo chimico che fa il sapone in casa con la soda caustica. Vi rendete conto che fumata, che botta di puzza ci sarà in quella casa nel momento in cui lui mette insieme questi ingredienti? Eppure è tutto contento. Dal suo esperimento maledetto verrà fuori un saponcino che lui dirà: ah, l'ho fatto in casa. Farà inodore, o peggio sarà maleodorante, non laverà assolutamente nulla rispetto alle schiume sintetiche meravigliose, al lime dei Caraibi a cui siamo abituati. Vedete, questa è una citazione anni 70, in realtà è un bagnoschiuma terrificante, dice al profumo di canapa, è orrendo, sembra qualcosa di marcito. Beh, noi siamo abituati a questa sintesi, a questa superflua lussuria degli odori improbabili, delle fragranze chimicamente realizzate. Cosa faremo mai con il sapone fatto in casa? 800 24 00 24, oggi ci stiamo pericolosamente muovendo sul precipizio della tentazione, da una parte, che ci trattiene di essere brave persone, parsimoniose, economiche, che non buttano via nulla, dall'altra parte nella smodata lussura del cupio dissolvi, di buttarsi nel precipizio però ebri di aver speso bene l'ultimo istante della nostra esistenza. Agnese da Roma. Ah, Eccomi, a proposito di sapone, io sono una di quelle che negli anni 70 con riviste femministe, cose di questo genere. Non si lavava, lo so, non era no, la sola. No, mi lavavo benissimo, ma pretendevo di fare il sapone in casa. E lo faceva anche lei con la soda caustica e l'olio per olivo. Carità, misi insieme tante saponette avanzate con non so che cosa che avrebbe dovute unire in un vasetto in attesa che tutto si rapprendesse. Ma una schifezza che buttai precedentemente. Beh, orrendo, rimane tutto quel grassettino. Era improponibile, quindi rinunciai a questo tipo di riciclaggio, però essendo una figlia della guerra, naturalmente ero abituata a un altro tipo di riciclaggio molto spontaneo che è diventata una seconda natura, non era un artificio, era proprio la seconda natura. E non tanto sulla luce, perché sono una un po'... diciamo che... Cosa riciclava? Andiamo al punto. Ma no, le piccole cose, lei fa... prende un pacchetto, prende queste orrende bomboniere venute in auge adesso, che sono davvero... e prende quei fruttini che ci sono attaccati, quei fiorellini, io magari li metto sulle bottigliette dell'aceto di mele per renderli un po' più carini, ma tutto lì, voglio dire, poi il resto... Guardi, ho la pelle d'oca. Sono perdite di tempo, lei pensi che... Vabbè, lei è pentita, diciamo, lei è una formica pentita. Ma per carità, ma io compro... Ma certo, alcune cose mi vengono spontanee, le faccio, ma sono decorative. Ma quando penso che comprai un giorno questo libro del 90, che era una riedizione di un libro del 1918, e la data è molto indicativa, L'arte di utilizzare gli avanzi della mensa. Praticamente è un libro assurdo, in cui si parla di riciclare magari un tozzo di pane mettendoci sopra tanti di quegli ingredienti che francamente è diventata una scusa il riciclaggio, perché lì di economo non c'è. Guardi, stamattina abbiamo rasentato la denuncia penale parlando di latte scaduto, di formaggio ammuffito, di mele marcite che ancora possono essere rimesse nella catena alimentare, quindi non c'è mai limite. Ci eravamo interrotti in maniera, intanto buongiorno Agnese, con Annalisa De Luca, che ricordo autrice di Facciamo il pane, Terra Nuova Edizioni, che ha una sua passione nella vita, che sono i fermenti selvatici. Ci ha fatto anche un blog, fermentiselvatici.org. Annalisa De Luca, ci eravamo interrotti bruscamente rispetto a quello che dice la nostra ascoltatrice. Cosa c'è di arcaico nella vostra attività e cosa invece ritenete di assolutamente in linea con lo spirito dei tempi, nel fermento selvatico, nel pane fatto in casa, nelle pizzettine rustiche che in realtà seguono le ricette perdute antiche, non le terrificanti, meravigliose alla vista, al tatto, all'olfatto, al gusto, pizzettine sintetiche che compriamo in cellofanata al supermercato? No, non sono così meravigliose al gusto, via, diciamoci le cose come stanno. Vabbè, siamo abituati, ormai siamo abituati. Vabbè, sì, però, fanno schifo a priori, ma... Via, diciamo, il momento in cui poi uno assaggia qualcosa di buono se ne accorge la differenza. Le lasagne, diciamo le lasagne, no? Le lasagne comprate al supermercato sono davvero più buone di quelle fatte in casa. E poi una domanda... che secondo me è fondamentale in questo discorso, perché stiamo parlando sempre dell'alimentazione, ma siamo sicuri sì, che... Sì, ma una moglie che fa le lasagne, dopo una settimana uno viene voglia di buttarla alla finestra, cioè... Non... ma, tutta la settimana le lasagne, mangerà un giorno, ma poi una volta ogni tanto, ma è quello, il discorso è questo qui, dobbiamo proprio risparmiare sul cibo, risparmiamo su altro, andiamo a teatro, godiamoci la vita, mangiamo come si deve, andiamo in un ristorante che magari ci costa un po' di più, ma dove si mangia come si deve, fatto con cose buone... Quindi ho capito, Lei è una finta formica, in realtà fa parte delle meravigliose, fantastiche cicale che tanto ci portano alla perdizione. Però io non comprerei mai un giocattolo per mia figlia che dura una settimana, per esempio, cioè faccio delle lotte terribili con i miei figli e poi magari gli compro delle cose da mangiare straordinarie. E invece guardi, c'è chi la contraddice, abbiamo Wagner Gobbi, buongiorno. Buongiorno. Lei, signor Wagner, è un esperto in lavori casalinghi. Sì, esatto. Qui quanti anni ha lei? 39. Quindi è un umarell precoce. Ma in realtà io ho imparato da un umarell, che è poi mio padre e mio nonno, mi hanno insegnato a fare un po' di tutto. Io le posso dire che in casa mia un falegname o un elettricista non ci mette un piede da 10 anni. Ecco. Lo sa che c'è, guardi, so che è una cosa scellerata, ma esiste una legge che prescrive una normativa che deve essere certificata da operai specializzati. Lei come fa con questo, da questo punto di vista? È fuori la legge? No, assolutamente. No, i suoi impianti non sono a norma. Allora, io ho fatto l'impianto elettrico di casa mia con le mie mani, poi ho chiamato un elettricista e gliel'ha certificato. L'ha smontato tutto, l'ha controllato, l'ha certificato e mi ha pure fatto i complimenti. Ma non faccia prima a farglielo fare direttamente, penso che la spesa cambiava poco. La soddisfazione di farselo da solo, beh, certo. Li vuol mettere. In cosa altro eccelle lei? Dunque, io le posso dire che ho fatto gli studi tecnici e a suo tempo, quando avevo 20 anni appunto, mi sono costruito cose tipo un caricabatterie, uno stereo. Fa un altro mestiere lei però? Adesso sì, adesso faccio l'informatico, mi sono Ma se tutti facessero come lei, i poveri elettricisti, idraulici, operai specializzati che hanno fatto corse, che quelli onesti, quelli che fanno la ricevuta fiscale, che fatturano sì. Tutto, non avrebbero motivo di esistere. No, beh, io l'elettricista l'ho pagato quando è venuto qua, però ho speso molto meno che far fare tutto il lavoro a lui. Sentiamo un attimo Enzo da Napoli. Enzo, buongiorno. Buongiorno a lei. Anche io comunque faccio tutto in casa, eh. La passione mi è stata tramandata ormai da separato, single, io d'estate con tutta la verdura di stagione, ormai c'è il mio pozzetto e preparo tutto in casa. Ma proprio c'è la passione di poter condividere poi la buona tavola con gli amici. Ma la passione costa, guardi, la passione mi costa di più, mi costa di più sicuramente. Ah, ecco, la materia prima che sicuramente. Ma vedi, questa mattina però stiamo individuando una nuova categoria di pseudo parsimoniosi, di falsi micragnosi, che in realtà trasformano in un lussosissimo hobby quella che apparentemente è un'attività mesta, un'attività ispirata da un senso di bisogno. E questo mi conforta. Se vi divertite, lo fate e spendete anche di più, è paragonabile a andare a giocare a golf, voi vi divertite così. Quello che questa mattina volevo in qualche maniera, non dico stigmatizzare, ma osservare con attenzione, lo faremo fra un istante dopo le informazioni del traffico, è quanto in realtà questa economia mesta di risparmio familiare aiuti veramente l'economia o quanto in realtà sia semplicemente una maniera per vivere ancora peggio dei momenti difficili. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Questo sgabello è davvero brutto, è proprio è senza appello, guardate, delle gambe tutte arrugginite, il piano superiore di finta formica tipo legno, proprio un disastro. Inizierò col togliere il piano superiore. Lo svito. Gli armadietti del bagno hanno la particolarità, purtroppo, di essere spesso davvero anonimi. Bene, io ne trasformerò uno grazie a carta da spolvero, cartoncino e punteruolo. Guardate questa credenza, guardate com'è ridotta dentro. È un disastro. Però, come sapete, non si butta mai niente. Quindi la missione impossibile di questa puntata sarà trasformare completamente questa vecchia credenza in un armadio guardaroba. Ho trovato questi meravigliosi stucchi, questo è semplice. 800240024. Ma vale la pena di scrostare delle sedimentazioni di generazioni e generazioni di frequentatori di quel bagno, quella credenzina in formica e truciolato, per farne qualcosa di apparentemente più decente allo sguardo. L'onta della micragna che ha ispirato questo gesto non renderà cupa ogni funzione svolta in quel bagno. Non sarebbe meglio comprarne uno nuovo, bellissimo, fantastico, meraviglioso, luminoso, igienico, pulito e metterci dentro tutte le proprie cose? Non lo so. Questo è il dilemma in cui ancora non mi so dare risposta in questa trasmissione, ma sentiamo un attimo Giorgio da Milano. Giorgio, velocemente. Sì, buongiorno. Io volevo raccontare un singolo episodio molto, molto significativo. Avevo 3-4 anni, avevo appena iniziato a camminare, direi fine anni 50, e mio nonno mi insegnò con una grande intensità di sguardo, che mi ricordo ancora adesso, come si raddrizzano i singoli chiodi per poterli riutilizzare. È utilissima questa attività. So che oggi che ci fa con un chiodo? Se a me mi dessero un chiodo, io lo raddrizzo pure, sono capace. Ma che ci faccio poi? Dove lo pianto? No, no, ma la cosa probabilmente deriva dal fatto che lui faceva il bottaio. Probabilmente nel periodo bellico i singoli chiodi non erano in commercio. Oddio, le botte non si legano con chiodi, che io sappia. No, sì, questo è vero, sì, ma probabilmente c'aveva anche vanno con degli incastri. Perché guai. Sì, no, indubbiamente. Comunque, lavori a fine con Ho una radice umarellica io che difficilmente mi coglie in fallo. Il bottaio non sì, no, no, comunque è assolutamente vero, le botti si fanno senza chiodi, ma comunque nell'attività che riguarda il legno. e io non sono riuscito a trovare l'occasione di far vedere fisicamente questo fatto a mio figlio, del quale immagino che veramente non ma suo figlio innanzitutto dovrebbe spiegargli cos'è un chiodo, perché penso che oggi un ragazzo non li vede mai i chiodi. Il vero problema è quello, perché non sa neanche bene cosa sia un cacciavite in realtà. Assolutamente, la differenza tra un cacciavite a stelle e un cacciavite normale a piatto non lo sa un figlio, è difficile farglielo capire. È molto chiaro però, perché appartenevamo a un'altra generazione, queste nozioni erano fondamentali, perché poi noi con i chiodi ci costruiamo le capanne, oggi con i chiodi non ci si fa niente, purtroppo, o per fortuna non ci si fa niente. Io volevo però dare una svolta, proprio in conclusione a questa trasmissione. Ho un ospite adesso che trasporterà le nostre facezze, le nostre tristi lucubrazioni su un piano di riflessione un po' più ampia. Professor Andrea Ichino, buongiorno. Buongiorno. Il professor Ichino è un professore di economia all'Università di Bologna, è autore assieme a Alberto Alesina del libro L'Italia fatta in casa, indagine sulla vera ricchezza degli italiani, edizioni Mondadori. Professor Ichino, rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora, è proficuo, interessante, fa funzionare meglio il paese, aiuta l'economia, ci fa stare meglio, ritornare ai vecchi sistemi della esemplificazione fantastica della micragna, o in realtà sono cose che non valgono più, non servono a niente, tanto vale vivere bene? Sì, la sua trasmissione proprio riesce in modo colorito a esprimere uno dei temi, delle domande che si pone il libro, perché è un po' paradossale, se andiamo a calcolare quanto vale l'Italia fatta in casa, che è quello che proviamo a fare in questo libro, viene fuori una cifra impressionante, cioè l'Italia fatta in casa, tutto quello che produciamo in casa vale più o meno tanto quanto quello che produciamo nel mercato, cioè raddoppieremmo il prodotto interno lordo se contassimo anche quanto produciamo in casa. Il problema però è che non possiamo andare dai nostri creditori, quelli che posseggono il nostro debito, quello che ci preoccupa tanto in questi giorni, dicendogli: guardi, c'ho questa torta della nonna, non la posso pagare in euro o in dollari, però posso darle questa sedia riciclata di lo sgabello del bagno ripulito e via dicendo. Esatto, oppure l'impianto elettrico certificato fatto da sole in casa. E questo è un po' il problema, il paradosso di questa situazione. Ma è crudele far capire alle persone che in realtà queste cose che ci appaiono da un punto di vista emotivo, ci sentiamo buoni, etici, corretti, se risparmiamo, in realtà non aiutano nessuno. Questo non so se la mia idea è giusta o sbagliata, io la penso così. Ecco, credo però che il problema non siano le torte e l'impianto riciclato. Beh, la metafora, le torte, l'impianto riciclato. No, appunto, però il problema è che quello che nel libro cerchiamo di identificare come la cosa che ci mette in difficoltà oggi, mette in ginocchio il paese, non è tanto questa produzione, ma tutto ciò che sta intorno al ruolo che diamo alla famiglia, alla vita in casa. Per esempio, si è discusso in questi giorni di ruolo della donna. Se questa Italia fatta in casa è principalmente fatta dalle donne, che quindi non vengono utilizzate nel mercato, questo significa usare forse in modo meno efficiente di quanto potremmo una delle risorse più importanti del paese. È vero, professor Ichino, lei mi toglie le parole di bocca. Quando la signora prima ha detto le belle lasagne fatte in casa, se io tenere mia moglie a casa a fare le lasagne, innanzitutto mortifico lei, ma tolgo una risorsa importante, secondo me, non so, al mondo del giornalismo nel mio caso, ma in altri casi a un'infinità di altre categorie in cui le donne possono dare un loro contributo. Non vorrei che fosse una sorta di nascosta e pelosa maniera di ritornare a vecchi sistemi di organizzazione anche della società, la celebrazione del fatto in casa. Sì, è esattamente un pochino questo, è una cosa che ci piace, che rende l'Italia un paese attraente anche all'estero, le nostre tradizioni locali ci tranquillizza, diciamo, però purtroppo non ci fa utilizzare le risorse che abbiamo nel modo più efficace, e quindi sostanzialmente è una ricchezza ma che non produce ulteriore crescita. Le economie autarchiche, contadine di una volta sono appunto economie che non crescevano. Sentiamo un attimo Davide da Caserta. Davide, ciao, velocemente, siamo in conclusione. Sì. Anche a me, mia madre comunque dal sapone fatto in casa, con il grasso di maiale addirittura, al maiale, al vino, all'olio, da professoressa di italiano, tutto ciò comunque riesce a convogliare tutto e a risparmiare. Ecco, però professor Ichino, ecco, l'ho fatto sentire quest'ultima telefonata che è simbolicamente rappresentativa. Le mamme che ancora educano i figli al risparmio del grasso e del maiale hanno una ragione storica d'esistenza, soprattutto in un momento come questo? No, oggi non più, proprio perché la famiglia, avendo questo ruolo che ha eccessivo, che da fisiologico diventa patologico, fanno sì per esempio che i figli non si spostino più di casa, che il welfare state in Italia sia un welfare state organizzato in modo totalmente familiare, quindi che le risorse economiche siano tutte concentrate intorno alla famiglia ma non siano concepite come risorse di valore pubblico. Abbiamo i bagni e le cucine di casa perfettamente pulite, ma fuori sporchiamo senza ritegno. In Inghilterra è esattamente il contrario. Quindi niente di male, non è un'economia mesta ripararsi le cose da solo, farsi il pane fatto in casa, che è anche più buono, come diceva una delle persone che ha parlato. Però non aiuta il paese. Questo Ichino, siccome è molto interessante quello che dice, la richiamerò a fare una trasmissione proprio dedicata all'esplosione su un piano nazionale del problema che abbiamo lambito semplicemente come uso domestico. A lunedì. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.